bentornati ad una nuova puntata di Maite FM, ovvero la seconda di questa undicesima stagione. Abbiamo iniziato la settimana scorsa un po' col botto, insomma, dando un po' il benvenuto ad un nuovo festival ed evento che si aggiunge a una schiera molto numerosa di festival europei dedicati alla musica elettronica e sperimentazione, non necessariamente musica da ballo, anche se la club culture, insomma, fa un po' la parte del leone. E siamo qui oggi 11 ottobre per parlare di un altro evento che ha preso sicuramente ispirazione dal Sonar di Barcellona, un evento che da 11 edizioni, questa sarà appunto l'undicesima, è una realtà costante nel panorama creativo musicale bolognese. Stiamo parlando del Robot Festival. E siamo accompagnati da una musica completamente diversa da quella di cui parleremo, ovvero l'ennesima versione che siamo andati a scovare dell'Inno alla Gioia, che dalla prima edizione, siamo comunque anche noi arrivati all'undicesima stagione di Maite FM, abbiamo scelto una versione di chitarra classica eseguita da Edoardo Diaz su arrangiamento di Ben Bolt. Ma partiamo parlando del Robot Festival con quella che sarà l'anteprima. Come spesso succede, anzi quasi sempre ogni anno, c'è un evento che anticipa, insomma, i piatti forti. Noi abbiamo definito un antipasto, come sempre nella cornice di Palazzo Renzo, sabato 12, quindi domani, ragazzi, ci sarà l'anteprima del Robot 11 con diversi nomi e anche diverse performance, più che altro installazioni, proiezioni, sonorizzazioni e soprattutto musica live. E uno dei protagonisti sarà Dorian Concept, di cui ci ascoltiamo un pezzo tratto dal suo ultimo lavoro del 2018, The Nature of Imitation, si chiama J. Byers. Dorian Concept, penso di averlo visto una volta a Spring Attitude, quando ancora si svolgeva nei locali dell'ex mattatoio a Testaccio. Dorian Concept, austriaco, nome vero Oliver Thomas Johnson, nome molto poco austriaco in realtà, ma nato nell'84 a Vienna, compositore, produttore e keyboard artist, un artista delle tastiere. Il cui lavoro prende ispirazione da vari generi, dal jazz al funk all'hip hop, elettronica, ambient. Ho detto hip hop. E questo nome d'arte è stato lui ispirato dalla Dorian Mode o Dorian Scale, ovvero la scala dorica, che è una progressione di note musicali, e non mi addentro in spiegazioni o traduzioni o, insomma, una cosa che viene da, essendo dorica, dai antichi greci. E quello da cui stiamo ascoltando questo pezzo è il terzo album nella sua carriera, che è iniziata con un EP nel 2008, ce ne sono già tipo 6-7, questo invece è il terzo album, il secondo già per la Ninja Tune e questo per un'altra etichetta illustre, ovvero la Brain Feeder. Famosa appunto per essere l'etichetta di Flying Lotus. Dicevamo, sarà questo uno dei nomi principali dell'anteprima del Robot Festival domani 12 ottobre a Palazzo Renzo, ad aprire le danze nel salone del Podestà, ovvero la sala grande con gli affreschi e i lampadari di cristallo. Sarà dalle 9 alle 11 Robot Sound System, ovvero Unzip Project, ovvero Tony e Marco, insomma anche due insomma, tra gli organizzatori, insomma direttori artistici del festival. Alle 23, per un'ora appunto, ci sarà il live di Dorian Concept, seguito poi a mezzanotte da, immagino, un DJ set di invece un altro artista australiano che è Francis Inferno Orchestra. E penserete che questo pezzo di Francis Inferno Orchestra si chiami Ecstasy, e invece no, si chiama Hygiene, igiene, una cosa insomma un po' da un po' un turn off, anche se l'igiene è assolutamente importante, soprattutto per certe attività. Francis Inferno Orchestra, nome d'arte di Griffin James di Melbourne. E se volete sapere che musica fa, la sua musica è autodefinita Australian Rhythm. Ma dicevamo del Robot Festival, una presenza costante. L'anno scorso fine settembre o ai primi d'ottobre, in questo caso anteprima il 12 ottobre, ma il festival vero e proprio si svolgerà venerdì 25 e sabato 26 nei locali già rodati, come abbiamo scritto, della Ex Gam, dove si sono anche svolte diverse serate diciamo di promozione, di preparazione al festival, anche una pochi giorni fa sotto la dicitura Terrace, ovvero sempre queste sedi di terrazzi, che sia appunto all'ex Galleria d'Arte Moderna, Piazza della Costituzione, vicino insomma agli ambienti della Fiera di Bologna, o che sia per esempio terrazza del Teatro Comunale di Bologna. ma non sarà l'unico spazio, perché ci sarà anche una novità nel panorama culturale e anche musicale, si immagina, di attività anche sportive, perché è un'area molto molto grande vicino al TPO, binari dismessi lungo via Casarini e soprattutto tanti casermoni. E dopo appunto le serate del festival 25 e 26 ottobre, anche la serata finale, diciamo il festone conclusivo, si svolgerà negli spazi di questa nuova realtà, ovvero Dumbo. Ma nella serata dell'anteprima di domani 12 ottobre a Palazzo Rienzo non ci sarà solo il Salone del Podestà, ma ci sarà anche la Sala Rienzo, dove ci sarà dalle 21 alle 22 Soundies, ovvero una selezione di videoclip con replica alle 23 e in collaborazione con CU Sound, International Music Film Festival, e poi dalle 22 alle 23 con replica, appunto si alternano queste due programmazioni a mezzanotte, Project trattino To, quindi Project To versus Avanguardie, ovvero una sonorizzazione a cura di Riccardo Mazza, che si occupa della parte musicale, e di Laura Paul della parte dei visual. E finisce Hygiene di Francis Inferno Orchestra ed entriamo nel programma vero e proprio del festival, ovvero partiamo, ci proiettiamo a venerdì 25 ottobre negli spazi, dicevamo, dell'ex GAM, ovvero della Galleria di Arte Moderna, dove nella sala principale, chiamata Main, alle 22 ci sarà il live set di Korjat, ovvero Giovanni Korjat di Torino, sì, Giovanni Korjat Mecho. Non è quello che stiamo ascoltando, perché in realtà stiamo ascoltando chi si esibirà dopo di lui, ovvero il tedesco Toulouse-Lautrec, ovvero Detlef Weinricht, tra i suoi ultimi lavori due EP dal titolo Decades, volume 2 e volume 3 del 2017, da cui abbiamo scelto due pezzi che abbiamo mixato insieme. Questo primo è Calligraph, seguito da Tazza, proprio così in italiano, Tazza, non vogliamo sapere che tipo di tazza. Dicevamo Detlef Weinricht, anche membro di un gruppo dei Kreidler, resident DJ e anche coproprietario di un club di Düsseldorf, Salon des Amateurs. Si esibirà nella sala principale dalle 23 a mezzanotte e a questo punto, visto che siamo idealmente entrati nel vivo del festival, siamo idealmente a venerdì 25, volevo leggervi dal sito robotfestival.it, dove troverete tutte le informazioni del caso, quello che è il manifesto di questa nuova edizione, dal titolo Black Box. Nel secondo dopoguerra iniziò ad affiorare da varie direzioni il moderno pensiero cibernetico, che guidato da personalità come Norbert Wiener e John von Neumann, intendeva esplorare la possibilità di una nuova scienza. Una scienza capace di ibridare lo studio delle scienze sociali e biologiche con i metodi del calcolo e delle scienze matematiche. Furono così studiati e approfonditi concetti come feedback, approccio sistemico e auto-organizzazione, ponendo le basi per l'era successiva che avrebbe visto nascere i primi modelli di intelligenza artificiali con il percettrone e le reti neurali. Guarda caso, sta musica ci sta benissimo. La cibernetica iniziò a considerare il mondo come un aggregato di sistemi che potevano essere approssimati con scatole nere in cui i dati entravano come input e uscivano come output. Non era importante cosa succedesse dentro la scatola, l'importante era il flusso di dati e la connessione con gli altri sistemi. Questo tipo di semplificazione ha portato a giganteschi progressi tecnologici, ma con la perdita inesorabile di una comprensibilità dei processi. Seguendo ciecamente questa strada, il progresso scientifico rischia così di portare con sé un'oscurità del processo, fatto di scatole imperscrutabili nei loro meccanismi interni. In questa nuova era oscura tutto diventa opaco. Algoritmi, scienza, tecnologia, finanza sono processi impersonali e incomprensibili per definizione, azionati e guidati da intelligenze non umane, che viaggiano a velocità, frequenze e secondo schemi con i quali non riusciamo più ad interfacciarci. Ed ecco che arriva Korjat. Alle 22 sarà lui, appunto, nella sala principale a dare l'inizio ufficiale al festival, anche se nella sala Indaco, altro spazio, ci sarà il DJ set di Fili Balù. Ma questo pezzo di Korjat si chiama Glessener Himmel, penso che potrei con discreta certezza poterlo tradurre come soffitto di vetro. Glessener Himmel 10799, anzi 10789. Chissà se sarà un codice postale di Berlino, visto che questo qui è un pezzo che è stato presentato nell'ambito della sua partecipazione alla terza edizione del Jäger Music Club, e noi sappiamo con certezza chi ha partecipato a edizioni precedenti, come il nostro amico Fabio Cavo in Arte Product e soprattutto Federica Ferracuti in Arte Who, che infatti è stata già ospite l'anno scorso dell'edizione di Robot del 2018. Produttore, pianista, compositore di base a Torino, influenzato dalla musica ambient, techno e jazz. Penso di aver letto anche che tra i suoi eroi ci sia John Hopkins. E si sente molto bene. Thank you. Robot Festival, 12 ottobre, 25 e 26. Non l'ho visto nelle immagini di questa edizione o nel sito, però fino a un po' di tempo fa, diciamo, il sottotitolo del festival era Digital Path into Music and Art, ovvero percorsi digitali dentro la musica e l'arte, con appunto installazioni, proiezioni, esperimenti in molti casi, e con una presenza fondamentale, come insomma ormai da tanto tempo, dell'elemento visivo e visuale che esalta l'esperienza psicofisica dell'ascolto della musica, che sia da ballare o meno, perché appunto come il Sonar, la madre di tutti i festival, nato nel 94, Robot si ispira, cioè attinge appunto alla scena della musica elettronica nel senso più ampio, come diciamo sempre e continueremo a dire sempre, non necessariamente club culture, e finisce Korjat. E riprendiamo la lettura del manifesto tenendoci in sottofondo un altro nome che abbiamo ascoltato già nella scorsa puntata, in quanto anche loro saranno al Sonar di Atene, ovvero sono gli israeliani Red Axis. Quindi dopo Korjat, Toulouse-Lautrec arrivano i Red Axis. Ricordiamo, Korjat e Toulouse-Lautrec sono degli act live, mentre Red Axis faranno 2 ore di DJ set. Con il diffondersi delle tecnologie digitali a livello profondamente pervasivo nelle nostre vite e nelle gestioni delle nostre relazioni, la datificazione ha portato questa oscurità anche nella nostra quotidianità. Nuove amicizie vengono suggerite da incomprensibili algoritmi proprietari formulati da sciamani del codice nel cuore della California. I quotidiani e i notiziari vengono sostituiti da servizi che ci scrollano davanti agli occhi, in autobus, a letto o a tavola, un flusso eterogeneo, caotico e infinito di notizie miste a spazzatura informazionale. E anche i modi di creazione e fruizione dei prodotti culturali vengono alterati profondamente dall'economia delle piattaforme. Ascoltiamo musica e vediamo film che ci vengono consigliati algoritmicamente sulla base dei nostri ascolti e visioni passate, ma anche del, virgolette, DNA musicale o visivo di ciò che le piattaforme sanno di noi. Ogni click, ogni play, ogni like è un interruttore che sposta pesi in algoritmi che ci pensano continuamente. E se l'altra volta avevamo ascoltato Shabbat Shalom dal uno degli ultimi lavori, pubblicazione dei Red Axis, ovvero Soundtest EP di quest'anno, ci ascoltiamo un altro pezzo ovviamente editato che si chiama Cuco Papa. We'll be right back. un duo che si è formato quando erano veramente adolescenti, sono conosciuti che avevano 14 anni, hanno iniziato a suonare in una band musica completamente diversa. Hanno fatto un disco dove c'era anche una cover di Bella Lugosi's Dead dei Bauhaus e poi invece si sono andati all'elettronica. Dori Sadovnik e Niv Arzi. Contemporaneamente ricordiamo che c'è anche tutta la programmazione della Sala Indaco, abbiamo già detto Filibalù, ma poi ci sarà anche una ragazza, una DJ inglese, si chiama Moxie. Siamo arrivati teoricamente alla mezzanotte e mezza di venerdì 25 ottobre, ma dicevo che invece prima dell'artista che stiamo ascoltando ci sarà una DJ anglosassone, Moxie, Alice from London, che ho scoperto essere anche lei una speaker radiofonica e che anche lei ha il programma sulla NTS Radio, come molti altri musicisti, DJ, producer. E una cosa che mi ha fatto molto piacere leggere è che ha risposto a qualche user che ha commentato, appunto, nella... ci sono tutte le tracce, insomma, delle sue trasmissioni radiofoniche con tutti i suoi ospiti. A un certo punto c'è uno che dice: ah, la musica è figa, peccato che lei parla troppo, cosa che ci è anche capitato di sentirci dire a noi, ma io dico sempre, io ti dico, chi canta o chi suona il disco eccetera eccetera, se ti piace magari te lo vai a cercare e ascoltare nella tua cameretta, perché io nel contempo ti do anche un sacco di altre informazioni invece che magari non te ne frega niente, però che sicuramente magari non pensi di andare a cercare, non te lo dirà nessuno, te lo dico io. E lei ha risposto a questo commento, gli ha scritto: se non vuoi sentirmi parlare vatti a sentire Spotify. E invece l'artista che stiamo ascoltando adesso, appunto, si esibirà nella Sala Indaco dopo di lei, lo abbiamo già sentito nella trasmissione dedicata l'anno scorso a Club to Club, è Leon Vinehall, UK. Questo pezzo si chiama Envelopes, tra parentesi Chapter 6, contenuto sia nel suo album dell'anno scorso Nothing Still, che ha anche pubblicato come singolo con una versione edit e una versione estesa, come quella dell'album. Dicevamo produttore britannico, DJ, house, deep house da un tempo, invece con questo disco è un po' retro. Mi ricordo che avevo letto l'anno scorso che era un po' dedicato alla storia dei suoi nonni. Che erano emigrati dal sud-est del Regno Unito a New York negli anni 60 e poi evidentemente o loro o i suoi discendenti sono tornati indietro, perché Dion è appunto britannico. E mentre prima avevamo letto il manifesto di questa edizione del Robot, con una musica abbastanza, appunto, che dava un tono distopico, quello che, insomma, giustamente parliamo di distopia come delle invenzioni di fantascienza, ma in realtà quello che ci racconta, che ci spiega questo manifesto sulle black boxes non è nient'altro che quello che sta succedendo. Ogni click, ogni play, ogni like è un interruttore che sposta pesi in algoritmi che ci pensano e soppesano, aggiungo io, continuamente. Era l'ultima frase che avevamo letto da questo manifesto. E riepilogando, venerdì 25 ottobre, negli spazi dell'ex Galleria d'Arte Moderna, zona Fiera Bologna, Piazza della Costituzione, ci sarà anche la Sala Opium, oltre alla sala principale e la Sala Indaco, dove si esibirà Leon Vinehall. La Sala Opium invece apre a partire dalle 23.30 e fino alle 3.30, con una installazione dal titolo Immersioni sonico-visive con Quarto Mondo, che si ripeterà anche sabato 26. Ma torniamo sempre idealmente nella sala principale. Abbiamo detto Corgiat Toulouse-Lautrec Red Axis e poi torna, come appunto abbiamo sentito nella scorsa trasmissione dedicata al sonar, Prezzemolino Oriol Riverola, ovvero John Talabot. E l'altra volta avevamo messo un pezzo di un EP della Ivern Disc con due tracce, una firma di Talabot e una firma di Kija. Invece adesso siamo andati un po' più indietro nel tempo e abbiamo ripescato una traccia di un, appunto, un singolo del 2016, Voices, che ovviamente abbiamo editato. È un pezzo che, insomma, i suoni balearici a lui tanto cari dopo Leon Vinehall. Nella sala Indaco c'è un'altra DJ, Batsista, proveniente dal Brasil, ovviamente per motivi di tempo, vabbè, a parte che alcuni DJ non hanno loro produzione, traccia, loro firma, ma insomma cerchiamo sempre di far ascoltare più roba possibile. È un festival, quello del Robot, che ha sempre dato tanto spazio a realtà locali e nazionali. Se vedete le sigle delle provenienze geografiche, direi che, appunto, come nel caso del Robot, c'è praticamente solo l'Europa. Nel caso del Sonar c'era un'eccezione, che era quella del... No, due eccezioni, c'era uno statunitense che non mi ricordo, poi c'era Tim Hacker dal Canada. E in questo caso c'è solo l'Australia con Francis Inferno Orchestra che ci faccia uscire dal nostro amato bistrattato continente, Batsista dal Brasile. Per il resto tantissima Italia, tanto Regno Unito, ma disunito dall'Europa, e quindi act italiani, Progetto, Corgiat, Filibalù, le immersioni sonico-visive appena citate in sala Opium dalle 23.30 in poi, e poi anche la giornata successiva, vabbè, artisti di cui, insomma, parleremo tra poco. We'll be right back. a contrasto con invece le cose che stiamo leggendo, ci teniamo l'allegria di Talabot. Futuro in cui intelligenze artificiali saranno capaci di migliorare le nostre tracce caricate su un cloud, mescolarle insieme alla gigantesca mole di dati online per generare nuovi brani è sempre più vicino. Musica artificiale creata sul commons della musica umana, trasformatasi in puro pascolo informazionale. Ed ecco che Shama e Shema Voices di John Talabot. Ecco, magari questi suoni sono appunto più adatti a questo presente imminente futuro da Black Mirror. I nostri dispositivi costituiscono ormai un'estensione della nostra memoria connessa con uno spazio virtuale troppo grande da saper gestire. La rete è sempre più un iperoggetto troppo grande da decifrare e l'utilizzo di processi automatizzati finisce per portare spesso il livello di complessità al di sopra delle capacità degli stessi creatori. Questo pezzo è appunto di un'altra realtà italiana, un progetto un po' oscuro, non si riescono a trovare molte informazioni, dei nomi, delle facce, tutto molto blurred. Si chiama Lei, virgola, no, tra parentesi, Innocence. Lei, no, Innocence. Queste parentesi che non si possono leggere. E che appunto ancora una volta la grafia dei nomi è importante tanto quanto il nome stesso, appunto perché, ancora una volta lo ripeto, passiamo la maggior parte delle nostre waking hours guardando qualcosa, appunto degli schermi digitali di piccola o media o maggior grandezza. E questo è un duo bolognese. Il pezzo che stiamo ascoltando si chiama Prayer, tratto da Innocence EP del 2018. Elettronica, dark, ambient. Anche se c'è un lavoro più recente che si chiama Solitude is the Playfield of Satan. La bio che leggiamo su Rocket ci dice: come in una caverna buia piena di pipistrelli, due punti. Se si ha coraggio, l'esplorazione di Innocence potrebbe dare delle belle sorprese. Ma sicuramente appunto fa da base perfetta per la lettura del manifesto di questa undicesima edizione del Robot. E siamo arrivati alla sua fine. Come affacciarsi a un mondo che cambia così rapidamente, modificando ogni pochi mesi le forme di creazione e fruizione dell'informazione e a cascata trasformando i processi economici, le strutture delle filiere di produzione culturale? Aprire le scatole nere della complessità è una necessità sempre più stringente per non annegare nel caos, ma riuscire a conviverci. Questo manifesto porta la firma di Daniele Gambetta e Andrea Zanni e lo potete appunto trovare sul sito robotfestival.it insieme a tutte le informazioni sugli artisti, il programma, le location e le news. E anche appunto vi potete iscrivere alla newsletter per essere sempre informati sulle attività che appunto non solo si svolgono durante il festival ovviamente, ma durante tutto l'anno ci sono appunto delle strade, dei percorsi che portano poi appunto per avvicinarsi all'edizione annuale. E un altro nome italiano è la giovane Irene Cassarini, che si definisce sound extremist sotto l'alias di Günther Haller. Poi vedo appunto dalle sue date, che penso che sia appunto di base a Utrecht, perché sono appunto tantissime date nella città olandese. In questo pezzo mi ricordo un po' Amnesia Scanner e un po' Lorenzo Senni. Il pezzo che ascoltiamo si chiama Xenon. Tratto da Mobile Energy EP del 2018. Una cosa molto interessante è che quello che ci presenta è appunto un live audio video dal titolo Queering the Digital Space, quindi informare in modo queer lo spazio digitale. Perché siamo passate alla serata di sabato 26, sempre alla GAM, gli spazi sono quelli della Sala Magenta, dove alle 20 apriranno Lei No Innocence, anche loro con un live audio video, seguito alle 21 da Günther Haller, mentre nella Sala Indaco dalle 20 alle 21 DJ set di T-Banana, anche lui italiano. Ma ci sono anche tante altre cose da leggere, tante, insomma, c'è un'altra cosa interessante, oltre al manifesto di questa edizione, perché c'è sempre un tema, ricordo Lost Memories, per esempio, qualche anno fa, c'è anche la voce About. Robot 11, qual è la realtà che sta dietro al festival e che lo ha costruito? Qual è la sua storia, quali contatti per poter collaborare, progettare, organizzare e promuovere le arti digitali ed eventi legati alla musica elettronica e di ricerca, percorrendo di regola traiettorie coraggiose, non scontate, non convenzionali. Questa è la visione di Shape, che è l'associazione appunto organizzatrice del festival, un'organizzazione non profit che in più di un decennio di lavoro ha saputo trasformarsi in una realtà dalla rilevanza europea sia per prestigio che per risultati. Il cuore è a Bologna, lo sguardo è rivolto a 360 gradi in giro per il mondo, sempre alla ricerca di spunti e riferimenti da riprocessare. Il Robot Festival è il frutto più importante, ma non certo l'unico, di un percorso che crea continue intersezioni coi processi comunicativi, l'industria culturale, l'innovazione e la capacità di rapportarsi con le complessità organizzative della contemporaneità. Sono molto curiosa di vedere Günther Haller, ovvero Irene Cassarini, in questo Queering the Digital Space. E passiamo ad un'altra presenza femminile. Al secolo Henrietta Smith Rolla, ghanese russo-tedesca, nata nel Regno Unito e di base a Manchester. Nome d'arte Afrodeutsche, appunto per segnalare la sua origine africana e tedesca, si vede, insomma, sono le radici che sente più forti. e lei alle 21 sarà indaco contemporaneamente. Accidenti, con Günther Rahler si sovrappongono. Beh, Afrodeutsche suona una mezz'ora in più per un DJ set. Il pezzo che stiamo ascoltando, anzi in realtà saranno due, perché si sa che insomma io faccio sempre un po' fatica a scegliere, quindi poi ne scelgo due e li mixo insieme così come viene. Si tratta, questo è Drink, poi seguito da Phase 2, entrambi pezzi tratti dal suo ultimo EP del 2019 dal titolo RR001, praticamente come fosse la sigla della release, per secondo insomma i codici, le sigle delle etichette. Poi non so se è così, eh. Come dicevamo, ghanese, russo, tedesca, producer e DJ, e come spesso succede, una varietà di stili, techno, house, electro, ma anche pianoforte, la musica classica, classical solo piano. Facendo appunto composizioni per film, documentari e opere teatrali. Basti dire che il suo primo live show è stato in apertura a Carl Craig nel 2016 a Ibiza. E anche lei ha una trasmissione mensile su NTS Radio, dove appunto fa sentire ovviamente le sue produzioni, che vanno dalla dark electro a breaks and jacking house. Siamo passati a Phase 2, in effetti, proprio letteralmente, secondo pezzo tratto da questo ultimo EP. E sembra proprio figa questa musica, e anche lei, devo dire. Ecco, questo è un po' Jack. Ed essendo Might FM una trasmissione molto personale, autoreferenziale, eccetera, io mi sono avvicinata al Robot Festival come utente entusiasta, anche perché insomma qui a Bologna ci si conosce, conoscevo qualche persona che ci lavorava, lo organizzava, quindi ho iniziato a fare, insomma, prima a frequentarlo, poi quando ho iniziato a fare radio ho cominciato a fare trasmissioni dedicate a questo evento e poi insomma anche un po' a dare una mano nei limiti delle mie capacità. Si traducono nel guidare, e quindi da qualche anno a questa parte, credo anche per questa prossima edizione, farò la cosiddetta driver, appunto cosa che mi dà modo anche di poter condividere un piccolo spazio limitato con poi persone, artisti che amo, che ascolto, e poterci parlare e poterli anche rincontrare nel tempo, come è successo con Talabot, con Tiga, con Trent Müller e molti altri. E siamo tornati nella Sala Magenta, siamo tornati a uno dei nomi, insomma, molto molto interessanti, ormai affermati, se non altro anche perché, insomma, per la gavetta che si è fatto e poi per la sua produzione a nome proprio. Siamo tornati alla Sala Magenta, saranno le 22 di sabato 26 ottobre e ci sarà il live audio video di Alessandro Cortini. Stiamo ascoltando Batti Cuore, il primo singolo diffuso dal suo nuovo album Volume Massimo, in cui tutti i titoli sono scritti tutti in maiuscolo. Un album ufficialmente uscito pochi giorni fa, il 27 settembre. Alessandro Cortini era stato anche ospite della edizione numero 7 del Robot, ma non ho avuto modo di vederlo, anzi dovevo anche, mi ricordo, accompagnarlo in stazione, ma se n'era già andato via per conto suo dall'albergo, ecco. Polistrumentista, compositore, produttore italiano ma naturalizzato statunitense, nato a Bologna ma cresciuto a Forlì, una distinzione insomma importante. Arriva a Los Angeles a poco più che ventenne, concentrandosi su tastiere, sintetizzatori. Collaborando anche con i Ladytron per poi diventare membro fisso dei Nine Inch Nails. È un'esperienza che poi ha avuto termine per dar vita alla sua attività solista, e in passato mi ricordo anche che sì, forse è stata appunto in occasione di quel Robot a cui partecipò anni fa col suo progetto Sono Io, tu scritto tutto attaccato, tutto maiuscolo. Poi nel 2013 rientra nei Nine Inch Nails. E poi si susseguono diverse pubblicazioni a sua firma. Ricordiamo Avanti di 2 anni fa e appunto poi Volume Massimo. Mi ricordo su Avanti erano, i titoli di canzone erano versi, verbi o azioni. e finisce Batticuore. È finito appunto Batticuore, e i titoli di questo album invece sono Amore Amaro, Let Go, Amaro Amore, Momenti, La Storia, Sabbia, Dormi. Insomma, un sembra appunto un disco sulla fine di una storia, come spesso succede nella vita e nella musica. Alessandro Cortini dalle 22 alle 23 in Sala Magenta, ma dopo Afrodeutsche in Sala Indaco arriva l'olandese Olf van Helden, nome d'arte Interstellar Funk, per un DJ set dalle 10:30 a mezzanotte. Artista che sta cominciando ad essere apprezzato nel nostro paese, infatti ha anche suonato al Today's Festival di Torino. Ciò che distingue le produzioni di G7 di Interstellar Funk è l'amore per le imperfezioni e le eccentricità associate alla musica analogica, new wave, electro, techno, jack track, elettronica pesante e tutto ciò che in mezzo popola, i suoi DJ set, così come i dischi da solista che ha pubblicato su Deck Mantle. Groove caldo, ma se c'è da legnare non si tira indietro. Che stiamo ascoltando è FX Harmonix, pubblicato appunto sulla compilation che festeggiava l'anno scorso il decennale della Deck Mantle, etichetta tedesca, vero? Deck Mantle 10 Years The Collection. Cosa ho detto? Tedesca? Sarà che tutta la musica elettronica, insomma, o tutti i musicisti, i producer vanno a Berlino, o ci sono insomma decine di etichette tedesche. No, Deck Mantle appunto, come Olf, è olandese. un misto molto piacevole, l'orchestra base molto dura e poi invece questi suonini, insomma, sembrano così leggeri, leggiadri. E scema FX Harmonix per passare a una bella sorpresa. Questo pezzo sembra un pezzo di Cure dell'81-82 e invece no. Ecco, lui sta a Berlino, lui si chiama Curses, Maledizioni. E infatti comunque il robot non è estraneo a ACT, diciamo un po' dark, mi ricordo Tropic of Cancer a Palazzo Renzo. E questo pezzo di Curses tratto dal suo EP del 2019 dal titolo Carcassonne si chiama Insomnia. La pagina delle informazioni sulla loro pagina Facebook c'è scritto numero di contatto chiama 1666666666. Membri del gruppo Carses e poi qualcun altro, città di origine Berlino. Informazioni Next Wave Acid Punk. Premi? No thanks. Cioè, Curses sono conosciuti per mischiare insieme rock and roll con i lati più oscuri della disco, incorporando delle parti vocali, diciamo, fantasmatiche e chitarre con dei flash di IBM, New Wave, post-punk e psychedelic synth vibes. Ma questo pezzo invece mi sembra appunto un classicissimo pezzo dark. Ricordiamo che dark appunto è una espressione usata solo in Italia. Quando lo parli, lo dici con qualcuno non italiano, non capisce, devi dire goth, In una trasmissione, non mi ricordo più perché, però ricordo qual è stata l'origine del termine dark per la scena italiana. Ma comunque, appunto, questo sembra un pezzo classico dell'inizio degli anni Ottanta. Magari, ecco, no, magari queste tastierine qua, sempre anni Ottanta, ma più stile Chromatics o Chromatics. Poi quei suoni che sono stati ripresi alla colonna sonora di Drive, anche dal quel plagio che sono la musica di apertura di Stranger Things. Quindi, a parte i casini che faccio io cercando di andare in ordine più o meno cronologico, temporale, di orari, se uno si guarda la programmazione della Sala Magenta di sabato 26 ottobre, c'è Leino Innocence, Günther Haller, Alessandro Cortini, Curses e poi arriva quel gentleman eccentrico, gentilissimo, simpaticissimo di Andrew Weatherall, di 17 da mezzanotte alle 2, mentre in Sala Indago di Banana, Afrodeutsch, Interstellar Funk e poi arriva Batu, DJ, producer, anche lui del Regno Unito, Batu, chissà come diranno, Batu, nome d'arte di Omar McClatchan. Anche in questo caso abbiamo scelto due tracce mixate insieme. Questa prima si chiama Flash React, tratto da un EP singolo del 2018, Rebuilt, per un DJ producer e anche fondatore di una etichetta discografica, Time Dance, di base a Bristol. Ha debuttato nel 2013 pubblicando tanti EP in diverse etichette, tra cui la XL Recordings. E quindi, essendo cresciuto a Bristol, è radicato nella bass music, ma incessantemente sperimentale e, insomma, forward thinking, spingendo appunto il suo suono verso dove nessuno è mai arrivato prima, frontiere soniche avventurose, creative, inventive. Ha fatto dei remix per Sanfa, ha partecipato appunto al Selectors Festival della Death Mantle, si è guadagnato il titolo di Best Mix del 2018 per il Guardian e appunto abbiamo voluto unire un altro pezzo che appunto sottolinea, esalta ancora di più il suono così propulsivo della bass music e la sua originalità, anche se questo pezzo sarà che subito mi è stato, mi è tornata la memoria per il titolo, si chiama False Reads, dal EP omonimo del 2019, e mi ha ricordato Line in the Reeds di Lone, anche lui è esploso, era un po' dappertutto, poi non, boh, non so, non si è più sentito. Ha suonato anche qua al TPO. Si fosse casualmente messo all'ascolto, non l'abbiamo ricordato, qui è Maite FM sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Potete anche ascoltare in streaming dal sito rinnovato da pochissimi giorni, Mighty Mau per Maite FM. Poi potrete trovare i nostri podcast sul nostro blog mightyfm.blogspot.com. Parlo sempre al plurale, sono sempre io, ma siamo sempre me, myself and I, per questa seconda puntata dell'undicesima stagione di Maite FM, dedicata al Robot Festival prodotto eminentemente Felsineo. Anteprima domani, cioè sì, domani per voi che state ascoltando la trasmissione, domani 12 ottobre, per me è tra 3 giorni, perché questa è una diretta differita, perché in realtà nelle ore in cui dovrebbe andare in onda questa trasmissione in diretta, io starò ballando al Sonar di Atene con Marco, Giovanni, Alberto e Serena. E quindi non sarò all'anteprima del Festival Robot il 12 ottobre, come non sarò a Spring Attitude, che si svolge a Roma sempre questo weekend, ma sarò sicuramente il 25 e il 26 ottobre, anche per i motivi lavorativi che ho espresso prima. Ma dicevamo, se il grosso del festival si svolge il 25 e 26 sera nei spazi dell'ex Galleria d'Arte Moderna, nella Sala Magenta, nella Sala Indaco e ricordiamo nella Sala Opium dalle 21.30 all'1.30, le immersioni sonico-visive con Quarto Mondo, c'è anche un altro evento, ovvero la festona serata conclusiva a partire dalle 23 negli spazi del Dumbo, ovvero un'area dismessa delle Ferrovie dello Stato, proseguendo dopo il TPO andando verso il curvone di Via Casarini, anzi che non è più Via Casarini, sì è Via Casarini. Come fa a non essere Via Casarini? Questi mega casermoni delle Ferrovie dello Stato e tanto spazio all'aperto, c'è stato un evento di presentazione tutto un weekend dove c'erano anche rampe per BMX, attività sportive di ogni genere, tessuto aereo, ragazzini tipo che facevano appunto coreografie di danza contemporanea o crew di breakdance. E a partire alle 11 Francesco Zaniboni, in arte DJ Ru, aprirà le danze per poi lasciare lo spazio al live di The Comet Is Coming. La mezzanotte e mezza a l'una e mezza, anche questo un gruppo britannico di base a Londra che mischia, come si può sentire, jazz, elettronica, funk e psychedelic rock. Sono formati nel 2013, tre membri: Danalog, Betamax e King Shabaka. Hanno fatto tre album. Il pezzo che noi stiamo ascoltando, perché appunto terzo album del 2019, ma non ne ho trovato traccia, invece sempre del 2019, quindi doppia uscita nello stesso anno, Trust in the Life Force of the Deep Mystery, c'è sempre questa componente cosmica. Cosmic jazz, cosmic funk. E questo pezzo si chiamava Summon the Fire, ovvero evocare, chiamare, come in un rito, no? Si evocano le forze, summon, si convocano, si chiamano. Trust in the life force of the deep mystery. E poi il nome obiettivamente più grosso, che rappresenta anche una prima italiana in esclusiva, è il grandissimo ritorno degli 808 State, una leggenda della scena dei rave, d'altra parte prende il nome da una drum machine della Roland, nati nell'87, quindi insomma all'alba dell'età d'oro dei rave a Manchester. Graham Massey, Martin Price e Gerald Simpson. Io ricordo soprattutto, e appunto a rileggere di loro mi è tornata in mente questa immagine vivida, io che scendo le scale dei collegi universitari di Urbino e mi è tornata in mente Pacific State. Pacific 202, tratta da 90, il secondo album degli 88 State, che sono tornati, appunto, tornano adesso, il loro album esce oggi, ovvero oggi fintamente venerdì 11 ottobre, si chiama Transmission Suite e il primo pezzo, che mi pare sia anche il pezzo di apertura dell'album che stiamo ascoltando, si chiama Tokyo, Tokyo. Thank you. e a chiudere la serata dalle 2.30 alle 5. Avevo letto inizialmente che poi è diventato 2.30 end della serie, non si sa quando finisce, potrebbe anche essere dopo, e scommetto di sì. Sarà l'italianissimo Donato Scaramuzzi, ovvero Donato Dozzi. Vent'anni di attività come DJ. E lui dice, appunto, 20 anni che faccio il DJ e non riesco ancora a rendermi conto della reale utilità sociale di quello che faccio. L'aspetto più tripping, insomma, più da viaggione e ipnotico della musica techno, come potete sentire da questo rework di un suo stesso pezzo, ovvero Parola. Tratto da suo ultimo EP del 2019, Variations. Ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola. Un rework di un pezzo contenuto in un lavoro del 2015, Sintetizzatrice, insieme a Anna Carignano, di cui sentiamo la voce. Insieme ci abbiamo voluto mettere un altro pezzo, un remix sempre di un suo pezzo che si chiama 12H.5, sempre tratto da Variations del 2019. Nonostante il suo amore per la musica elettronica, si è comunque laureato all'Università di Roma con un dottorato in scienze politiche. E questa, insomma, questo livello di istruzione combinato con la sua conoscenza enciclopedica della musica, che infatti gli ha fatto anche guadagnare il soprannome del professore, che ci ricorda anche qualcos'altro, tipo la Casa dei Papel. Quindi è UDJ laureato. Poi nel 2004 arriva, diciamo, la tradizionale trasferimento, che sia per qualche mese o che sia per sempre, come molti anche DJ produttori italiani che conosco, a Berlino, dove resta per 4 anni, guadagnandosi appunto anche il posto di resident al Panorama Bar. Ed essendo uno specialista in chiusure, è stato chiamato apposta per chiudere in bellezza, sicuramente ad un orario imprecisato, all'alba di domenica ormai 27 ottobre, questa 11ª edizione di Robot Festival, che inizia domani con l'anteprima del 12 e poi 25 e 26, e ne abbiamo parlato questa sera come sempre ogni anno. Claudia Matimau vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima puntata di Might FM. Ciao!